Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Quelli che sentite sono i rumori della cucina di Casa Caldera, una casa alla periferia di Milano pensata per persone con gravi disabilità, perché vi possano vivere in autonomia senza genitori che per una vita intera hanno dovuto farsi carico di tutto, spesso con aiuti esigui. Si tratta di un progetto sperimentale che a Milano ha già diversi nuclei simili, appartamenti condivisi in cui ognuno ha una propria stanza, una cucina comune e l'assistenza di educatori e personale specializzato. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. È il posto sognato da due mamme, Gabriella e Carla, i cui figli con gravi disabilità oggi non ci sono più. Sono Gabriella Mosca, sono presidente della Fondazione Durante Noi, una fondazione di partecipazione di familiari di persone con disabilità. Oggi siamo in Casa Caldera, è una casa che si trova a Quinto Romano, un quartiere di Milano vicino a Baggio, un quartiere periferico, ma molto accogliente. Casa Caldera l'abbiamo vista la prima volta grazie alla cooperativa Ferruccio De Gradi, che è la proprietaria del condominio Case di Ringhiera di Milano, molto caratteristico, e grazie a loro ci hanno fatto vedere questi locali che ci hanno colpito proprio all'entrata, perché è una grande sala accogliente con due porte finestre che danno sulla strada, quindi sul quartiere di Quinto Romano, e un'altra porta finestra che dà sul cortile interno del caseggiato. Quindi il primo pensiero delle famiglie, insomma, che hanno visto questa casa insieme a me, è stato una casa di relazione, una casa aperta sul territorio che avrebbe permesso di avere molte opportunità di conoscere, di relazionarsi col quartiere. Abbiamo pensato facesse al caso nostro, perché avevamo bisogno di spazi grandi per ospitare le persone con disabilità. Oltre a queste quattro camere, che hanno ognuno due letti, quindi possono ospitare due persone ciascuna, c'è un grande bagno, abbiamo utilizzato un ufficio, l'abbiamo destinato a bagno attrezzato, che può ospitare sia persone in carrozzina, autonome o bisognose di assistenza, o anche, nel caso in cui fosse necessario, anche una barella per poter lavare una persona da sdraiato. Io sono Carla Dell'Orto e sono una socia fondatrice. Quindi le persone vengono qui per sperimentare cosa? Vengono qui per sperimentare una vita autonoma dalla famiglia attraverso dei progetti che vengono chiamati progetto ponte, che prevede che la persona che magari non è mai uscita di casa proprio per le sue peculiarità, per la sua fragilità, abbia modo di avvicinarsi alla casa piano piano, per cui un educatore prescelto per ciascuna persona lo va a conoscere a casa, al centro diurno, e poi con lui viene in questa casa prima a fare una merenda, poi a fare una cena, e poi una notte, e poi due, poi tre, e fino a quando scaturisce la possibilità di dire a mamma e a papà: io dormo fuori casa, ecco. Che è una cosa fortissima, no? Per certe famiglie è proprio anche un po' un sollievo, nel senso immaginarsi quel dopo di noi di cui si parla tanto in movimento. Certo, è un sollievo da una parte, ma è anche uno star male, perché c'è l'autonomia del figlio rispetto ai genitori, ma c'è l'autonomia dei genitori rispetto al figlio. Qui entrano persone che ormai sono anche abbastanza avanti con l'età, e di conseguenza questi genitori sono stati legati a questi figli fino ad ora, e quindi anche per il genitore staccarsi dal figlio, fidarsi degli operatori, fidarsi della casa, insomma, è un lavoro grosso. addosso. Sono tanti i sentimenti che entrano in gioco, sì, sì. Quella di oggi è una grande storia d'amore e di generosità. Arrivo a casa Caldera e incontro i genitori. I loro figli, ormai 40-50enni, sono ancora nei centri diurni. Arriveranno dopo. Il racconto di queste donne, di questi uomini e delle loro esistenze è centrale per capire questa storia. Elisa Ballarini, sturlese da sposata, e questo mio figliolo ha 48 anni, è nato con la sindrome di Down, ma poi si è aggravato molto dal punto di vista comportamentale. Ora purtroppo sono anche rimasta sola, perché il marito, che mi stava sempre vicino e che mi aiutava a portare avanti questa difficile esperienza, perché comunque sia è difficile, purtroppo l'anno scorso è venuto meno. Mi faccio coraggio e cerco di appoggiarmi agli amici che ho, alle conoscenze, di venire informata di cosa c'è, di come sta funzionando la realtà di Milano. Quando ha scoperto questo progetto, quando ha scoperto Casa Caldera? Allora, io sono 40 anni, Francesco ne ha 48, sono 40 anni che giro per conoscere case, istituto, persone che si dedicano a questo problema, perché abbiamo sempre pensato al dopo di noi con tanta, tanta paura e anche dolore. Quindi non mi sono mai fermata, senza concludere niente però. Poi ho conosciuto dei responsabili che mi hanno dato la massima fiducia, come loro capacità, conoscenze, affetto, e siamo diventati, mi permetto di dire, quasi amici. Quando poi stava per nascere questa casa, anche in considerazione che avevo visto da vicino che la morte c'è e anche la malattia, ho detto qua mi devo un pochino decidere, solo pochino però. E poi la coesistenza di queste persone che io stimo, quali sono affezionata, mi ha fatto fare il primo passo. E non posso dire niente, cioè sono contenta, sì, timorosa e contenta insieme. Non mi faccio grandissime illusioni che sia la casa definitiva di Francesco, non so neanche come proseguirà il rapporto con loro e il rapporto con lui, però ci voglio credere e spero che le cose vadano secondo i miei desideri. Rispetto a quando Francesco era un bambino, mettiamo Francesco, sì, ha 8 anni, Francesco, sì, oggi, sono cambiate tanto le cose, sì, no? Anche rispetto... No, sono cambiate in meglio, sono nate molte più di queste case, riguardo alle quali però io mi lamento, perché sono sempre stati scelti poi per diventare gli occupanti i ragazzi non gravi, e i gravi, per i loro problemi, che senz'altro sono tanti e sono difficili, hanno sempre detto teneteveli voi genitori. Gli istituti mi fanno paura, ma mi fanno paura da un punto di vista emotivo, personale, poi staranno anche bene là, e quindi è stata un'idea che ho sempre rifiutato di accettare, illudendomi che il ragazzo possa essere inserito un giorno in una casa, con una casa come questa, ecco, me lo faccia dire. Allora, io sono la mamma di Barbara Muffatti e mi chiamo Pistoia Maria Luigia. Quando lei è entrata in questa casa, cioè con sua figlia, cosa ha provato come sensazione? Io personalmente una gioia immensa, perché ho trovato una casa, come diceva la signora, non un istituto, che io detesto, perché ho la paura proprio dentro di me che dei maltrattamenti, perché se ne sentono talmente tante. Sua figlia è qui, sta dormendo qui o ancora sta facendo? Ho fatto mini esperienze, tanto è vero che venerdì questo verrà nel pomeriggio qui, farà sabato, domenica e viene a casa lunedì, cioè sta facendo degli weekend, piccoli weekend. Per lei com'è pensare appunto che resterà fuori, che dormirà fuori? Io sono preparatissima, perché purtroppo ho la mia età anch'io, faccio fatica, perché lei è fra l'altro più alta di me, è un po' più grossettina di me, e quando ha queste crisi sono veramente in difficoltà. Dico solo questa parola. Lei è da sola con sua figlia? Io sono sola e di conseguenza non ho né parenti, non ho nessuno vicino, quelli che ho sono lontano, di conseguenza. Quindi tutta una vita che lei e sua figlia siete assieme, c'è anche molta fatica, no? Come diceva adesso. E beh, certo, è una fatica, perché con queste crisi che sono improvvise, non si sa mai. Io ad esempio quando sono in piedi, che la vedo che magari le cade solo una cosa, ma si muove in questa maniera, io sono già lì che mi giro di colpo, perché ho paura che sia la crisi che è caduta, che sta cadendo. Perciò si vive veramente molto, ma molto male. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Siamo a Casa Caldera, nel quartiere di Quinto Romano, una casa dedicata a persone con gravi disabilità, persone che di solito vengono accolte in grandi istituti e che qui invece hanno la possibilità di vivere una vita autonoma. Allora, io sono Giulia Francesca Carra, sono educatrice professionale presso Casa Caldera e, come dicevano i genitori, è un'alternativa, diciamo così, alle strutture, perché il senso non è quello del riempimento, ma piuttosto dare un senso di accoglienza e di casa proprio, tant'è vero che gli abitanti totali sono massimo 5 e in questo periodo stiamo cercando di creare dei gruppi ad hoc che permettano ai singoli ragazzi e alle ragazze di convivere in base a proprio le loro alla loro individualità, alle loro caratteristiche. E il senso e il lavoro che facciamo noi come operatori è quello di andare a lavorare su quelle capacità e abilità dei singoli ragazzi e in un contesto di casa, quindi quotidianità. È differente da una struttura dove magari ci sono momenti strutturati o attività impostate per... Questa è proprio una casa, quindi tutte quelle attività che si farebbero in una casa normale con la propria famiglia, cercare di mantenere queste appunto abilità in ogni singolo ragazzo, ovviamente tenendo in considerazione dell'individualità e quindi delle capacità del singolo. Mi fai un esempio di giornata, un esempio tipo di giornata? Sì, allora la maggior parte dei nostri ragazzi frequentano i CDD, quindi mediamente fino alle 4-5 la casa non è diciamo così abitata. Gli altri? I centri diurni, sì. E gli altri tornano mediamente intorno alle 4, alle 5 del pomeriggio e nel pomeriggio della settimana fondamentalmente ci occupiamo magari in un primo momento della merenda, il bere il caffè, perché il caffè abbiamo scoperto essere un elemento fondamentale che unisce e aggrega tantissimo il gruppo e piace a tutti, non abbiamo ancora trovato un ragazzo a cui non piaccia il caffè, non decaffeinato, quindi proprio caffè puro. E successivamente, dopo la merenda, che cerchiamo di rendere il più conviviale di gruppo possibile, c'è chi come Barbara appunto si dedica al gioco della Wii, creando delle vere e proprie sfide interne anche con gli operatori, e per poi dopo passare al momento magari dell'igiene, quindi la doccia, la preparazione della cena, quindi con chi è possibile iniziare ad apparecchiare anche la tavola. Non abbiamo orari, nel senso che non ci sono orari prestabiliti, quindi alle 7 si cena, alle 9 si va a letto, assolutamente no. Tant'è vero che, per fare un piccolo esempio, un mesetto fa più o meno abbiamo avuto un abitante che fa lo scrittore, nel senso che ha un vero e proprio contratto con una casa editrice e diciamo che andava a letto intorno all'1-2 di notte, questo per far capire che proprio non sono strutturati gli orari in base a ogni singolo ragazzo e ai propri tempi e le proprie abitudini. Carla Dell'Orto è una delle fondatrici dell'associazione Durante Noi. In effetti, rispetto alla grande quantità di case famiglie che a Milano ci sono da tanti anni, e questa è forse la prima, se non una delle prime, che appunto si apre alle persone che hanno un livello di fragilità più alto, quelle che abitualmente fino all'altro giorno non riuscivano neanche a pensare di poter risolvere i loro bisogni se non in una struttura organizzata, in un RSD. La nostra sfida è quella proprio di fare in questa casa quello che ogni famiglia cerca di fare col proprio figlio, anche se molto fragile, trovare una soluzione per vivere un quotidiano fuori dall'ospedale, fuori da diciamo una struttura che chiaramente non porta ad una vita tra virgolette normale, ecco. E quindi adesso l'impegno della nostra fondazione sarà quello di rendere questo quotidiano il più gioioso possibile. vogliamo partire dal territorio, vogliamo cercare di prendere contatti, di contaminarci con la zona, con gli anziani, con le biblioteche, con le feste rionali, insomma tutto quello che è possibile e immaginabile per poter dire sì, oggi è sabato e domenica, non andiamo al centro, però a casa qui ci si diverte. Ecco, perché fondamentalmente quello che noi vogliamo è quello, che i ragazzi stiano bene in una casa vivace e allegra. Con Gabriella e Carla, le due donne che hanno dato forma a questo sogno che è Casa Caldera, ci sono i genitori dei primi ragazzi che entrano a vivere in questo grande accogliente appartamento. Quelli che state per sentire sono Dino e Francesca, genitori di Alessandra, che oggi ha 50 anni. Una coppia molto simpatica, si descrivono come una squadra di governo e in fondo non hanno torto. Sono io che la fermo. Anche Dino dopo. Allora, io vi chiedo di... Ho la delega ai trasporti, alla finanza, al lavoro. Alle lei... relazioni. Ci sono io. C'è lei. Allora, questa è una coppia. Lei una è? Bella coppia. Lei è? Io sono Francesca Robustella, sposata con l'Olivieri. Lei è? Dino Olivieri. Quindi lei ha detto ai trasporti, cos'è che diceva? Trasporti, finanza, lavoro, vabbè, economia, queste cose qui. E lei invece è per la comunicazione, per quanto riguarda l'istruzione, ha la delega in queste cose qui. Siete un piccolo governo. Noi siamo, voi. Sì, sì, sì, sì. Lei è la mamma di Alessandra. Sì, Alessandra, che è una ragazza che ha appena compiuto 50 anni, che è nata bene, ma a 9 mesi purtroppo, una febbre, forse un'encefalite, ha cominciato a stare, l'effetto non è stato immediato, tant'è che la pediatra aveva detto che era stato scongiurato il pericolo, perché una febbre alta, non ha avuto convulsioni, niente. Alessandra non è libera, cioè cammina sostenuta, cioè non ha mai avuto ausili caschi, quelle robe del genere, però adesso gli educatori l'hanno sempre sostenuta, cammina sostenuta ultimamente, da quando adesso nei centri è intervenuta l'ATS, quindi a un certo punto per la sicurezza Alessandra rischio caduta, quindi ci hanno consigliato una carrozzina che adesso è al centro, noi non la usiamo mai, cioè ce l'hanno loro, casomai dovessero uscire, fare delle uscite lunghe così, la utilizzano. Noi invece, io e lui, ci ostiniamo stancandoci a farla camminare, perché temiamo, perché se perde anche questa abilità di camminare avranno anche più problemi, perché... Casa Caldera nasce dall'incontro di 3 realtà, Spazio Aperto Servizi, Fondazione Durante Noi e Fondazione Idea Vita. Si tratta di un progetto che andrebbe immaginato come un sistema funzionante sul territorio nazionale. Allora, sono Giovanni Rauli e sono il direttore dell'area residenzialità, housing ed emergenze sociali della cooperativa Spazio Aperto Servizi. Questo progetto è un progetto innovativo, appunto, per come è strutturato? Ma allora, questo è un progetto che si inserisce in un filone di progetti innovativi per la disabilità che, come Spazio Aperto Servizi, abbiamo iniziato ad implementare ormai 11 anni fa, perché abbiamo aperto la prima casa simile a appunto a Casa Caldera nel settembre del 2008. Quindi abbiamo cercato in questi anni di implementare un modello alternativo agli istituti. Una, 2 o 3 case non erano significative. Quello che stiamo cercando di fare è appunto un sistema che possa portare ad un cambio di paradigma rispetto alla possibilità di accoglienza. Cambio di paradigma che vede sicuramente un numero importante di case, che necessita di un continuo e costante dialogo, però adesso anche con gli attori istituzionali, perché molte di queste case si basano su una dimensione privatistica, cioè le famiglie pagano di tasca loro le rette per poter permettere ai propri figli di vivere qua. Quello che, ripeto, si sta cercando di fare è anche un costante dialogo con le istituzioni, quindi con il Comune di Milano soprattutto, ma anche con ATS, nella speranza di poter fare in modo che questo diventi un modello riconosciuto e quindi la possibilità che il pubblico possa pagare senza grossi problemi quello che sono i costi. Consideriamo che comunque i costi per queste esperienze non sono così lontani dai costi degli istituti. sono anzi pressoché assimilabili, ma con una qualità della vita ovviamente ben diversa. Quella raccontata oggi è dunque la storia di un progetto che guarda la disabilità come una parte attiva della nostra società, che immagina questi uomini e queste donne abitare il quartiere, conoscere i negozi, avere possibilità di intrecciare relazioni. Io sono Elena Giacomelli e sono la coordinatrice di Casa Caldera. Voi strutturate anche un percorso di apertura verso il quartiere, no? Per cui dalle 4 in poi si può immaginare di andare a fare la spesa? Assolutamente sì. Adesso sabato scorso sono andati a fare la spesa, poi ci hanno messo dentro una pausa bar per caffè, succhi di frutta, eccetera, passeggiata, e poi sono rientrati e hanno preparato la cena. Domenica mattina, per esempio, sono stati per quasi tutta la mattina, visto che era una bella giornata di sole, al Parco delle Cave, e quindi hanno fatto una passeggiata lunghissima. Due settimane fa sono andati fuori a pranzo. Sabato sera sono venuti qua gli abitanti di un'altra casa di Spazio Aperto Servizi e hanno mangiato insieme la pizza, hanno passato insomma una serata in compagnia. Si è proprio, sì, aperti a quello che si può fare anche nel quartiere, anche nella città. Com'è stato ascoltare le testimonianze dei genitori? Per me è sempre emozionante, perché ci si rende conto delle fatiche proprio che si portano dietro. Si chiamano sperimentazioni, esperienze, eccetera, in realtà sono proprio dei pezzetti di percorsi di vita lunghi, lunghi. E poi mi dico che questi sono proprio dei genitori coraggiosi, perché non so, insomma, scegliere comunque di fare dei percorsi che non sono predefiniti, che non hanno un inizio, una fine delimitate, che non hanno dei paletti, che è vero che permettono magari di inventare meno, no? Di aver meno fantasia, però da un certo punto di vista possono anche rassicurare, no? Invece loro scelgono di costruire insieme una strada che, diciamo, partiamo di qua e poi vediamo come va avanti. Insomma, sono coraggiosi, sono veramente coraggiosi. La vita delle persone che saranno in questa casa è strettamente collegata a quella dei loro genitori, spesso ormai anziani, e che fino ad oggi non hanno mai passato una notte senza i loro figli. Venendo in questa casa ho subito respirato un'aria che mi piaceva. Io sono molto, cioè, subito vado così, sono istintiva quasi. E mi è piaciuta, però tra il dire e il fare bisogna provare, quindi abbiamo provato con le merende, adesso siamo arrivati, che ha fatto la prima notte, lui mi prende in giro perché è stata una notte altro che la prima notte, di più, perché, ma non perché, no, spiego perché lui poi vede, lui ce l'ha sempre, sto in non vedeva l'ora che Alessandro facesse questa esperienza per potersi finalmente riposare e la mattina dormire fino alle 10, e invece, ma neanche alle 6 era già in piedi. Ci fermiamo qui. Un saluto da Cristina Carpinelli. Potete scrivermi a diario@radio24.it. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.